Avattene, non sei niente, solo chiacchiere di zizio. Qui finisce la lezione. È solo chiacchiere di zizio, solo chiacchiere di zizio. Onda Rossa 87.9 della modulazione di frequenza, 22.55 minuti primi, non so se ti ritorna niente in cuffia, niente, proprio zero. Vediamo un po' se la mia voce torna di più, un po', sì. Allora ci siamo, dicevamo, 17 di maggio, 2017, manca una settimana precisa e poi saremo al 24 di maggio, cioè il compleanno della radio, i 40 anni di questa emittente. E puntata dopo puntata, da ormai quasi un annetto a questa parte, con frequenze alterne, cerchiamo di ospitare, e il cerchiamo ha un significato ben preciso, cerchiamo di ospitare compagne e compagni, redattori e redattrici della radio. A volte ci riusciamo, a volte no, però insomma, come potete sentire, come potete anche caricare dal sito della radio stessa, sta uscendo fuori un quadro così interessante in cui non è che chiediamo che ci venga ricostruito una mappa storica della radio, insomma non chiediamo date precise, nomi, fatti e contingenze, ma semplicemente chiediamo così di ricordare le cose più piacevoli, più belle, più significative, magari mettendoci anche insieme due note, perché proprio in una di queste puntate avevamo chiarito che proprio l'ascoltare, il riascoltare una traccia, un brano, una musica è forse quell'elemento che ancor più degli odori, dei sapori, di tante altre sensazioni ci riporta in quel momento specifico, ci fa fare un vero e proprio salto indietro nel tempo e ci aiuta pure a dare coerenza a tutta questa roba strana che sono le nostre esistenze più o meno ribelli. Quindi vi ricordo che siete all'ascolto di Radio Onda Rossa, 87.9 della modulazione di frequenza, questo è 25 o'clock, www.ondarossa.info è il sito. Le diciamo velocissime perché tanto in questi giorni, in questa settimana avrete modo di riascoltare la radio in euforia, insomma, per questa festa dei 40 anni. Quindi dicevamo www.ondorossa.info, andando su Sostieni troverete tutte le modalità per sottoscrivere per Radio Onda Rossa. Troverete appunto i podcast delle cose più salienti, più importanti che facciamo. 61 80 40 01 il numero del conto corrente postale di Intestare Radio Onda Rossa, e non è più così. Operativa Culturale Laboratorio 2001, 00185 Roma San Lollo, via dei Volsci 56. 06 491750, recapito telefonico ondarossa@ondarossa.info, la mail della trasmissione invece è 25oclock@ondarossa.info, 25oclock scritto a numero. Adesso sentite fra poco. Si indovinate un po' la voce che ci sarà accanto alla mia. Alla nostra, come si diceva. Yeah! Original Don Rudeman pan the microphone filming Mogruta from Basconia, Rudeman from Bologna, representamos por la calle. Eccoci qua con senza dirlo, ovviamente. Sì, indovina, no? Sì, senza dirlo. Così, dovevano indovinare, dico, la voce. Io dico il mantra e dalla voce si capisce, no, però. E Radio Onda Rossa 87.9 della modulazione di frequenza. Un saluto a tutti i compagni e a tutte le compagne in ascolto, ma un saluto particolare va a chi ci ascolta privato della libertà, quindi chi ci ascolta rinchiuso nelle carceri romane oppure agli arresti domiciliari. È come andare in bicicletta. Beh, ma volevo dire questo per rompere il ghiaccio, perché c'è un gruppone qua che... No, dai, allora rompiamola così. Bravo, bravo. E tanto quello lì è la cosa che viene comunque spontanea, che uno c'ha dentro e via. In realtà avremmo dovuto essere, già l'avete capito, insomma, avremmo dovuto essere accompagnati da un'altra voce femminile stasera. Mi serviva poi, perché abbiamo fatto uno spottino adesso con tutte le voci della radio, in cui tra l'altro ci stanno tanti degli invitati e le invitate qui a, appunto, negli studi della radio durante 25 o'clock, e mancavano proprio delle voci femminili. Mi serviva proprio, speriamo che chiama. Il presidente, l'unico, no, vero presidente riconosciuto, il presidente. La mano come un'antenna, trasmettendo da manifesta. Brazzaletto, tigre e mucchita, da due corteja. Quindi parto subito, se non ti dispiace, con Fermino Mogruzza, quindi con una colonna sonora che dice proprio 1999-2013, che credo più o meno, forse qualche anno prima, corrisponda proprio al periodo della tua permanenza, più o meno. Insomma, no, forse qualche anno prima. diciamo, della... qualche anno prima, qualche senz'altro, anno. Sì. Metà degli anni 90, in cui successe qualcosa in radio, cioè la radio fece comunque una cosa che è risaputa, l'abbiamo detta, l'abbiamo scritta più volte, la redazione della radio si aprì, cioè a un certo punto andò a cercare in quelle che erano le realtà di movimento a Roma un nuovo stimolo, insomma, per trovare nuove risorse per trasmettere, per trovare argomenti, per avere un rapporto coi movimenti, che, perché appunto le organizzazioni che c'erano state fino a quel momento di riferimento della radio stessa ormai avevano finito, avevano esaurito il loro ciclo così politico e culturale, vitale, di militanza, eccetera. Quindi andava fatta appunto questa, andava a cercare questa nuova strategia, e te e altri compagni e compagne cominciaste a far parte della redazione della radio. Sì, no? Mi ricordo il seminario si tenette alle Aulette Blu. Sì, sì. Uno di quei posti nevralgici della sì. Roma, e quante ne potrebbero raccontare? Diciamo, i compagni che l'hanno organizzato, i compagni della radio che l'organizzarono all'epoca, ne sono sempre andati fieri, giustamente, perché ci fu una partecipazione al di là di ogni aspettativa, anche una partecipazione dove si produssero i documenti apposta per l'occasione, insomma, sì, l'occasione era ghiotta. Certo, c'era la diffidenza che sempre c'è tra le strutture, per cui non ti dimentichi mai la storia passata, allora vabbè, però quelli erano quelli de, mentre io sono il cugino di, il parente, certo, de, però la storia di Roma, esatto, la storia del movimento romano, diciamo che io e altri compagni, diciamo, come fu una scelta fatta in assemblea del Centro Sociale Visto Quinto, se ricordo bene, sì. E si dice che il Visto Quinto prendeva un turno per aiutare con la redazione della radio a trasmettere in maniera continuativa, cioè perché c'erano solo dei buchi che non si riusciva a riempire. Quindi io e un altro paio di compagni, più di due compagni, alla fine rimanemmo in tre, che insomma, dopo dell'esperienza non uscimmo più dalla radio. Sì, insomma. Anche perché appunto poi la radio ha questo tipo di caratteristica, non tutti, non succede a tutti e a tutte di venire catturati, affascinati, però c'è chi rimane intrappolato, in realtà poi entra dentro la radio e difficilmente riesce a uscire, e comunque quando esce ci lascia sempre dentro, certo, un pezzetto. Quindi dei 4, 5, 6 compagni che all'inizio facevano i turni per la Visto Quinto, diciamo in 2-3 siamo rimasti in pianta stabile, proprio sia per la fascinazione dello strumento, ma anche perché è un punto di vista privilegiato sul movimento, sulle lotte, cioè sei partecipi di tutto quello che succede al di là della tua struttura, della tua zona. Noi eravamo un centro sociale, no? Ancora di più all'epoca, quando, certo, non è che c'era internet, la rete, i social network, eccetera. Cioè tutto quello che succedeva a Roma in qualche maniera doveva passare per la radio, quasi, certo, tutto, ecco. Cioè la mattina tu arrivavi e dopo un po' cominciava a suonare il telefono e qualcuno ti raccontava qualcosa, e lì poi stava l'esperienza, la prontezza dei compagni capire appunto cosa si aveva davanti e come affrontarlo, insomma. E quindi vabbè, diciamo, questo è il tuo approccio. Il mio approccio, diciamo che prima, se mi ricordo bene, perché potrei fare anche lì un po' di confusione di anni, già facevo una piccola trasmissione la sera. Ecco, sinceramente non ricordo se è venuta immediatamente prima o immediatamente dopo. Immediatamente durante. Cioè. C'è una chiamata, vediamo un po' chi potrebbe essere. Era una specie di trillo, vabbè. Un saluto probabilmente. Pronto? Ci sei? Buonasera. Vedi, buonasera. L'avevamo evocata il presidente. La presidente, innanzitutto. No, Ciccio ha detto il presidente. Buonasera. Ha usato il maschile. Buonasera. No, io perché mi sono un po' emozionata, così ho sentito l'andamento della trasmissione, è andato e se subito mi è venuta in mente la prima sera, no? Che ho fatto il turno in radio, sera tardo pomeriggio. Allora abbiamo fatto sta riunione lì in via, giù al 30, e mi ricordo che io, tutti quanti mi dissero, no, vabbè, tu allora sei arrivata, proprio fu la riunione il giorno dopo, già mi hanno lasciato da sola. Alle 7 di sera fa il GR con il televideo, ricordate il GR? Non si era detto che fino al compleanno raccontiamo solo gli aneddoti positivi, quelli negativi del compleanno in poi. Vabbè, ma questo non è negativo come aneddoto. E comunque, ecco, questa cosa non me la scorderò mai, perché è vero che comunque la radio già la conoscevo e sapevo utilizzare gli strumenti, però non avevo idea, no, di come si potesse condurre un turno. Senza essere troppo precisa, quindi non vogliamo sapere il giorno, non vogliamo sapere il mese, non vogliamo nemmeno sapere l'anno, però più o meno, almeno la parte del decennio, di che periodo stiamo parlando? No, era il 96, era aprile del 96. Due giorni prima del mio compleanno, quindi era il 27 aprile del 96. Quindi, io non desideravo tanta precisione. 96 facevi 10 anni, mi sa. Sì, bellissimo sarebbe stato. E sì, poi le orette blu anche sono un bel ricordo, ci fu questa apertura. Il Sisto comunque faceva il turno già da prima, già c'erano dei compagni del Sisto che facevano il turno quando ci fu poi il seminario alle orette blu e all'apertura, sia le strutture di movimento, ma anche insomma tantissimi compagni magari che non venivano da realtà politiche ben precise, ma che si sono dedicati alla radio tantissimo. E concordo con Ciccio su quello che dice, quando appunto ti faceva sentire la radio comunque, tra virgolette, privilegiato, no? Perché è vero, hai una visione delle cose completa e veniva attraversato da tutto, e per cui comunque era molto bello, perché ti dava la possibilità comunque di metterti a confronto con tutto quello che ti succedeva intorno, e questa forse è una delle cose che ti lascia più ricchezza, no? Da un punto di vista personale, quindi parlo solo da un punto di vista dell'individuo che ha attraversato, del compagno che ha attraversato la radio, che ne ha fatto parte sia della redazione che magari anche delle trasmissioni eccetera, perché c'avevi appunto questo contatto generale con tutte le cose che ti coinvolgevano tantissimo. Credo che questa cosa ci sia ancora, no? Non so se magari, ecco, certo, Stefano ce lo può confermare, ma immagino che sia la stessa cosa, che sia lo stesso approccio. Sì, ma è vero appunto questa visione privilegiata, però anche, come dici te, una grande responsabilità in realtà, perché poi c'è sempre la paura, quando uno apre i microfoni, di dover dire delle cose precise. Guarda, cioè, chi se l'è vissuta meglio, chi se l'è vissuta peggio questa cosa. Noi eravamo, la redazione di quel periodo era abbastanza spensierata, fino a quando poi arrivò la mazzata di Genova, insomma, per cui e c'era comunque un modo di voler poi parlare per radio, magari scoprendo anche le cose insieme a chi ti ascoltava, no? Quindi non avere la presunzione poi di dire no, guarda, le cose che ti dico io sono quelle, punto, no? Ma soprattutto eravamo preparati, avevamo, diciamo, i basilari, nel senso, noi riusciamo a fare GR dal televideo. Certo, cioè, sì. Pensa quando è arrivato internet, era tutto in discesa, no? Lo ricordavamo con Spider, insomma. Esatto, esatto. Quindi c'era un approccio anche spensierato, comunque, di condivisione anche di quello di cui parlavi. Quindi chi ti ascoltava poteva tranquillamente in quel momento essere redattore, no? C'era un'interscambiabilità eccezionale da questo punto di vista, quindi c'era più tranquillità. E è chiaro che poi Genova è stata anche da questo punto di vista un po' uno spartiacque, perché abbiamo dovuto per forza riaddrizzare il tiro, poi dovevi avere proprio invece lì, soprattutto dal punto di vista sulla repressione, avevi una responsabilità troppo grossa e quindi dovevi dire delle cose ben precise, allora lì, ecco, quando aprivi bocca dovevi stare attento a quello che dicevi. Sì, anche perché quando vedevi poi che magari tu avevi una notizia leggermente sbagliata, poi la raccontiamo. Esatto. E sì. Il TG3 la riprendeva dandola come notizia non certa. Quindi, cioè, allora mi ricordo, insomma, io stavo qui a Roma, Daniela stava a Genova, affacciata di fronte alla Diaz, vede passare i sacchi neri che per il lavoro che fa, riconosce come i sacchi dove si trasportano i cadaveri. Ciccio, pure te che va a ricordasse cose tremende, sempre i ricordi positivi, no? Erano sempre quella cosa di raccontare del buio, le cose concitate, non ci si rende conto che stanno trasportando soltanto le cosiddette prove che avevano fabbricato sul posto. Ma dice, oddio, ci sta un morto. E immediatamente lei lo dice per radio, lo commenta per radio, il TG3 nelle notizie che giravano sotto sulla diretta di Genova pubblica che si vede un sacco nero uscire, probabilmente morto. Per fortuna non era così, ma cioè, insomma, era dura raccontare quelle cose. Senti, io vi ascolto e attaccherei, se non ci sono problemi continuerei, magari, ecco, se ti viene voglia, sì, esatto, se ti viene voglia. Permettetemi di fare tanti auguri a Radio Onda Rossa per i suoi 40 anni, così come la prima telefonata, e basta, perché non voglio dire altro, perché insomma penso che dal mio tono si capisca di quanto poi di fatto la radio... per me continua a essere molto molto importante, soprattutto per il ruolo che ha, e quindi io mi auguro e gli auguro di continuare ad esistere e di farlo bene, ovviamente, come abbiamo sempre fatto, come abbiamo sempre tentato di fare. Io vi ascolto e mi riservo di riintervenire se ho qualche cosa da dire. Va bene, resigniamo la riserva. Ciao. Un saluto, a dopo. Ciao. It's a vibe between Jamaica and Basque Country. Yeah. Sentite esta música, corpulán. London calling to the faraway town. War is declared and battle come down. London calling to the underworld. Come out of the cupboard, you boys and girls. London calling, now don't look to us. Phony Beatlemania has bitten the dust. London calling, see we ain't got no swing except for the rain and the crunch of things. The ice is coming, the sun's zooming in. Meltdown expected, the wheat is cooling. Engines stop on him, but I have no fear, 'cause London is drowning. I live by the river, to the imitation zone. Forget it, brother, you can go it alone. London calling, to the zombies of death. Quit. Eccoci qua di nuovo in onda. Allora, io volevo, mi chiamo Igor, volevo parlare appunto per fare auguri alla Onda Rossa per il lavoro che ha fatto per sempre, e mi ricordavo l'involuzione della comunicazione con l'esterno, insomma, che si è usata in qualsiasi sede. Prima ho preso il contatto con la gente, perché si sente tanto, ah, noi certe cose, prese posizione piano pace, però la gente non lo sa, anzi, si sta contro. E poi si trovano purtroppo, non si piace durante un festeggiamento a parlare, però si trovano le persone che hanno magari procedimenti in corso, perché magari pensavano di averci appoggio da gente, chi stava appoggio da gente, la radio e il movimento, sia quello antagonista che quello parallelo, è stato sempre fatto sul contatto con le persone. Il contatto, a un certo punto, c'è stato una specie di esclusivismo che è partito prima da poi c'è stato istituzionale, la gente c'era istituzioni vicino, poi si sono allontanati di istituzioni e hanno cominciato, come si dice, a raccontare le persone, si sono pietizzati, uno al posto, uno ha detto tutto stava, e finita la comunicazione con la gente, quindi stai a fare, cioè, sai che il lavoro di comunicazione è andato un po' a scemare. Comunque volevi quindi fare pure gli auguri alla radio in ogni caso? Mo sì, adesso perché mi sono un po' appesantito. Sì, auguri alla radio sì, perché stava sempre una voce, insomma, che ci ha detto le cose come dovevano, come stavano realmente, come venivano viste da chi aveva lo stesso impegno, magari, che ne so. E ognuno ha preso un ruolo nella cosa, no? Io mi sento che il ruolo mio, che era quello che sta a contatto con l'altro, l'ho sempre assolto, invece la radio mi ha sempre aiutato in qualsiasi modo. Io una volta sono entrato pure su a parlare io del suo, mi sono affacciato già a piazza chiude e infatti dopo un po', vabbè, stupidaggini, però insomma stava sempre vicino ai compagni, ai cose, però ultimamente è stata notizia che non piacciono troppo, ma sarebbe pure bene andare a mezzo alla gente in modo che magari ritorna a fare comunicazione e ci piace tanto, di battaglie che si vincono, di quelle che si lottano, che si imparano su quelle per. Va bene, ti ringraziamo Igor allora. Ma io vi ringrazio a voi sempre. Grazie, ciao. Il 24 qua sotto, dai. Allora, ci ristiamo in onda a Onda Rossa e nel frattempo andavano i Clash, insomma, mentre così ci chiamano dalla notte profonda della metropoli, ecco. Sì, no, i Clash, che vi ricordo un'altra serata qui in radio, perché non mi ricordo in che anno, ma non mi ricordo il giorno, il mese, però mi ricordo che era lunedì. Perché no, forse il giorno non potrei ricordare, poi vabbè, basta rigirarlo su internet, sì, no, però a però era lunedì, l'anno era il 2002, potrebbe ci essere sta. 2002 o 2003, e il mese è dicembre sì, e il giorno forse il 19, e comunque era lunedì. Era un lunedì. Perché io mi ricordo che ebbi la notizia al lavoro e continuai a lavorare. No, continuai a lavorare per tutto il tempo, ma c'avevo questo magone che mi saliva su. C'era qualcosa che non quadrava. Cioè, poi comunque, cioè, mica era un amico tuo, no? Cioè, sì, forse non lo so. Allora stavo. Era morto Joe Strummer, l'abbiamo detto. No, no, ecco, era morto Joe Strummer. E io mi sentivo appunto come se. Se era successo qualcosa che di grandissimo, cioè, eppure razionalmente dicevo, beh, no, dai, che cavolo. Sono arrivato in radio perché lunedì c'era la riunione e c'erano altre due o tre persone che quasi mi aspettavano perché sapevano. Ma volevo aprire i microfoni? Ma volevo dire qualcosa. E cominciassero anche il telefono: di ah, Ciccio, sei arrivato? No, perché hai visto che è successo? Giusto? E quindi diciamo, questa cosa che io non riuscivo a razionalizzare bene, che mi stava sconvolgendo, era sentita da tanti compagni e tante compagne che come me condividevano l'amore incondizionato per un certo tipo di modo di essere, di musica, di chiamalo come ti pare, e niente, quindi abbiamo dato il via a questa maratona di Clash, di Joe Strummer e The Mescaleros. Ma guarda, io come radio penso, almeno per quello che mi ricordo, che c'è stato un periodo che la cosa, io anche ultimamente nelle ultime festeggiamenti della radio mettevo proprio London Calling, come la volete chiamare, con la pronuncia più o meno inglese o più o meno maccheronica romana, è forse la cosa che in un certo periodo andava proprio sempre in radio. Te aprivi la radio e c'era London Calling. Probabilmente c'era qualche cassettina, adesso non mi ricordo il periodo storico preciso, insomma, andava sempre, era secondo me il pezzo più mandato da Radio Onda Rossa, almeno per un periodo. Radio Onda Rossa va a questi a queste fasi, da Pierangelo Liberto a Joe Strummer, con una Strummer, e va a periodi, per cui chissà perché, proprio probabilmente in una maniera, in un periodo un po' precedente, negli anni 90, i Clash, che erano già finiti da 10 anni, sì, abbondantemente, invece c'avevano un periodo di grande attenzione e di grande ritorno. Non so adesso perché, forse era la generazione nostra che voleva rimanere giovane, non so qual è la motivazione precisa. In fact, you bother me, not anymore. I can't take this tale. It's all around Jimmy Jones, down Z, Z, Z, Z, J, A, Z, Z, Z, Z, Z, J, A, Z, Z, J, A, Z, Z, J, A, Z, Jimmy Jones. And then it sucks. L'altra domanda invece che volevo porvi, che mi sono preparato proprio in questo periodo, che così è una cosa che ci pensavo, ripensavo, pure appunto pensando all'ipotetico intervento, di Daniela, era proprio quella sul motivo, sul fatto per cui ci troviamo oggi di fronte al fatto che Radio Onda Rossa, questa è come oggettivamente, storicamente determinata una cosa, poi ci può piacere o meno, può essere una responsabilità o meno. Radio Onda Rossa, essendo una radio ancora in FM, che esattamente, diciamo, la parte importante della radio è esattamente come quella del 77, cioè trasmette su una frequenza che sta più o meno intorno a Roma. Poi ci abbiamo aggiunto tanti altri pezzi, che può essere pure che sono ancora più determinanti della parte iniziale, però Radio Onda Rossa trasmette sugli 87.9 adesso, prima sul 93.3, 93.4 e 50. Altre emittenti che ci sono state a Roma di movimento, diciamo, che prendevano altri pezzi di movimento, quali potevano essere inizialmente Radio Città Futura, Radio Proletaria, poi Radio Città Aperta, Radio Popolare per un periodo, non ci sono più, questo è un dato di fatto. Qual è il motivo per cui, cioè la cosa che mi interessa, qual è il motivo per cui Radio Onda Rossa ci sta ancora e non ha dato quasi mai cenno di trovarsi, no, non ha dato mai cenno di trovarsi in crisi, semmai l'hanno fatta trovare, hanno cercato di chiuderla, ma in realtà non così. Forse nemmeno in maniera troppo convinta. Abbiamo ricevuto alcuni attacchi, però in realtà entrare in crisi di mentre poi invece questa cosa qui è avvenuta per Radio Sherwood a Padova, non c'è più, per dire, o comunque e si è trasferita integralmente sul web, insomma non trasmette più in FM, anche Radio Città Aperta sta sul web e basta, insomma chiariamo anche se persone che magari non hanno mai ragionato sulla cosa, non sanno i dati, una radio sul web praticamente non esiste, sì, cioè puoi avere 5 ascoltatori, 7, ma fossero 10. Anche 1000 rispetto 1000 a sono quelle grandissime, proprio una grande città, sì, quando sì. Aprire FM, anche se solo per ma non sono web radio, sono radio che sì, già sono però ecco una radio FM anche solo per sbaglio appena l'accendi parli con un numero incredibile di persone potenzialmente. Quindi quando dicono siamo passati al web perché è il futuro, no, sono passati al web perché avevo dei problemi, perché per una scelta di ritirata, non no di, ma tra l'altro è una cosa che a me dispiace molto, ma che scherzi, cioè, no, è no, una no, cosa che per cui uno va, è contento che hanno chiuso le radio cugine, o è una cosa che mi dispiace molto, perché vuol dire che l'etere è meno ricco comunque di informazioni, anche di cose che magari alle volte non erano così, non c'erano così simpatiche a noi. No, vabbè, però comunque vuol dire che ci abbiamo diviso anche delle lotte, delle dirette, delle dirette in Paponte, sì, punti radio, i punti radio anche. E perché stiamo ancora qua? Non lo so, io dicevo una volta quando stavo sempre qui in radio, tipo 30 anni di Radio Onda Rossa nonostante noi. Sì, e, sì. Però sì, però forse è quello, forse è che è talmente una proprietà indivisibile e di tutti che potrebbe sembrare retorico, ma non è. Infatti, che è talmente tanto che magari gli acquirenti non sanno manco a chi bussare, oppure non si pongono neanche, pensano com'è, che è impossibile, che c'ha degli anticorpi tale per cui è così. Non lo so, non si può spiegare ovviamente. No, no. In realtà dovevamo essere un anello più debole proprio per la disorganizzazione della nostra organizzazione. Certo. E invece questo secondo me ci ha fatto proprio da corazzo. Cioè, ok, ci vuoi attaccare, e da dove cominci? Quello potrebbe essere proprio dal punto di vista. E il fatto che tutti si. Cioè, tu parlavi delle frequenze, no? Sì. Cioè, allora noi siamo stati anche sulle frequenze sempre noi. Protagonisti della scelta, anche quando era sbagliata. Sì. Cioè, allora ricapitiamo in due parole: 93, 93, 4 e 50. A un certo punto il Radio Vaticana, se vi ricordo bene come è andata, sposta le sue frequenze. Sì. E copre tutta una serie di radio romane, tra cui noi. Sì. Si fa una grossa battaglia insieme a queste altre radio, che non erano radio vicino a noi, diciamo, politicamente, ma solo nella disgrazia. E una tenda San Giovanni da dove si trasmette. A un certo punto tutti quanti vanno a mediare col Vaticano e con il ministero e hanno le loro frequenze. Solo un piccolo villaggio della Gallia, dove ci vivono i più pazzi di tutti, e dice no, noi rimaniamo qui e voi dovete mandare via il Vaticano. E quindi per questa nostra scelta, che è giusta nell'enunciato ma sbagliata nella pratica, però Giuseppe Lucciato, ripetiamo per non mi ricordo quanti anni, che Radio Onda Rossa ascoltarla era un atto di fede. C'era gente che ci chiamava, diceva oggi si sente bene se mi metto sulla tazza del bagno con la mano alzata. Questa è un'altra cosa che mi sono dimenticato di ricordare. Ti ricordi? L'utilizzo ogni mattina noi chiamiamo, diciamo fateci sapere come si sente. Allora c'era chi attraversava, che c'era la radio in macchina, attraversava Roma, allora bravetta, andato tutto ok fino a che sono arrivato. Era un atto di fede ascoltarla, perché andava via in considerazione. No, infatti per un periodo ascoltavo radio Proletaria, poi Radio Città Aperta, che si sentiva da casa mia, malgrado la fede e gli sforzi disumani di portare la radio, che ne so, appesa al soffitto vicino alla lampada, niente, non c'era verso, non si ascoltava. Allora, un'altra a casa mia non si sentiva, e mi entrò Radio Proletaria, non so più come si chiamava all'epoca. Sì. Si era già Radio Città Aperta, e quindi i discorsi che si facevano erano simili a quelli che sarebbero fatti alla Onda Rossa. Io non riconoscevo le cose, sento dire due o tre cose, alzo il telefono e capirò, dico ma che cazzo sta, e normalmente noi stiamo mandando musica e quindi insomma. E vabbè, a un certo punto la redazione dei compagni, quella penso immediatamente prima del mio arrivo in radio, fa la scelta di occupare questa frequenza che ci segnalano come lasciata libera. Sì, c'era una radio che non mi ricordo, Voglia di Radio, una cosa così, una cosa del genere. E quando una radio non trasmette per un tot tempo, la frequenza perde diritto alla frequenza. Quindi si ha il primo caso di occupazione di una frequenza. Cioè la Radio Onda Rossa si sposta sull'87.9. Pure lì. Attenzione, in un periodo sempre adesso ci troviamo per esempio in un momento storico in cui così lo metto a cappella per spiegare anche il momento storico attuale, ci stanno sono state abbandonate le frequenze in AM. Ci stanno dei compagni, ad esempio Alex Emerson di Firenze, che stanno montando delle antenne AM e cominciano a fare delle sperimentazioni. Ci stanno delle tecniche legali anche per non incorrere in eventuali sanzioni, eccetera, eccetera. e si sta trasmettendo ora. Stiamo parlando di un periodo in cui non esisteva il web, non esistevano i web radio, le televisioni stavano abbastanza a palla nel periodo. Adesso la televisione è praticamente in fase discendente, galante, non, e una frequenza radio era importantissima e molto costosa, tra l'altro, cioè era un capitale, era e ancora, ma probabilmente all'epoca lo era ancora di più. Sì. Non lo so, insomma, no. Però immagino di sì. E quindi questa la prima frequenza occupata, e lui lì già erano tutti pronti, veramente cosa ci faranno, arriverà il telegramma del ministero, arriverà qua, eh? E invece per quelle strane alchimie che succedono soltanto quando i più matti fanno le cose, ti ricordo parecchi i compagni che erano contrari a questa opzione, che accusavano gli altri di avventurismo, farete chiudere la radio qua e là, invece la scommessa va in porto. Anche lì va in porto per un periodo, tranquilli, non sembra tutto essere si appianato. Cambia il ministro. Fino a che cambia il governo, cambia il ministro, soprattutto va in giudicato una sentenza, non mi ricordo, TAR, Consiglio di non mi ricordo, per cui questi proprietari di Voglia di Radio dicono no, o meglio, i proprietari di un'altra radio, penso che avevano comprato la frequenza, portano un pezzo di carta che un giorno prima che cadesse il diritto loro l'avevano comprata da Voglia di Radio, e che quindi questo metteva in discussione tutto e che noi dovevamo andarcene. Sì. E anche lì ci siamo messi in moto su due piani, no? Dalla parte quella di andare al ministero a fare i tavoli di trattativa, che poi per noi il tavolo di trattativa era, senza neanche pensarci troppo prima, in maniera abbastanza intuitiva, è stata subito una minaccia di ma il Vaticano veramente vuole che ritorniamo lì, ma siete sicuri? Perché vi ricordate cosa gli abbiamo fatto passare? La frequenza nostra era quella che confinava col Vaticano, ed è vero che loro ci hanno oscurato quasi totalmente, però il centralino del Vaticano impazziva di telefonate di protesta, e qualche persona timorata di Dio ogni tanto, invece di prendere la radio vaticana, prendeva Radio Onda Rossa. E quindi diciamo il fatto di quasi chiamare, dico un paradosso, chiamarsi ad alleati Radio Vaticana è una delle cose che è stata vincente, ma ancora più vincente, qui torno a perché ho preso il discorso di Tommy. Sì. Cioè, qual è la nostra forza? Che immediatamente noi abbiamo spiegato che c'era questo attacco, che caso strano il ministro era uno IEN, che ci dovevano togliere questa cosa. In tutta Italia, dovunque andava il ministro, veniva preso di petto da insospettabili cittadini che in 2, 3, 10, 50 gli andavano a dire lascia stare Onda Rossa. Nelle città di provincia più inaspettate, il ministro non poteva più camminare. E abbiamo deciso di fare un corteo. In quel momento anche Indy Media aveva subito, Indy Media su cui avrebbero scritto più di un libro, perché per quanto è durato veramente è stato devastante, ma in maniera positiva. E Indy Media aveva subito degli attacchi, decidiamo di organizzare quella manifestazione, sapendo che se tu fai una manifestazione per dire non mi ci potete chiudere perché noi nella città contiamo qualcosa, se poi sei pochi, hai segnato un punto all'avversario. E invece non eravamo pochi, 10.000, sì, forse sì, una cosa del genere, dove le parole d'ordine non erano altre ma lanciate dalla radio. La parola d'ordine era la radio Indy Media, quindi Indy Media e la radio, che portano quasi 10.000 persone in piazza sul fatto, cioè non ci potete toccare. E la scommessa in un periodo anche funziona. Abbastanza basso, diciamo, di mobilitazioni, tra l'altro non mi sembra che ci fossero dei movimenti particolarmente, sì, come periodo. Che anno era? Vatta a ricordare. Perché mi viene da pensare che per una storia di motivi che era una delle prime manifestazioni, era appena arrivato l'euro. Quindi sì, un po' dopo Genova. E quindi dopo Genova, Credo di sì. Abbiamo una bella foto di là che lo ricorda. Certo, appunto, la memoria ci fa difetto e non dovrebbe essere, però però appunto ai fini, dalla l'ora e dati i fini della ricostruzione, sì, no, che è una ricostruzione per, emozionale, solo per dire che una cosa di cui tutti si sentono proprietari, tutti, quindi nessuno, E alla fine hai questo poi sui anticorpi più, forse più potrebbe, una risposta non l'abbiamo data, però la domanda iniziale, la risposta potrebbe essere questa, elaboro sempre non una risposta precisa, ma qualche un elaborato di sì, qualcosa che succede, per cui per una strana magia in realtà di cui nemmeno noi sappiamo esattamente la formula, Radio Onda Rossa sta qui e vi trasmette, è peggio per voi. Proprio a questo proposito, peggio per voi. Quel sole che di notte illumina le stanze di chi con gli occhi rossi accoglie timide presenze. fratello, un amico. Renato Alto Taxo Federico. Sei il fratello di un fratello, una madre che commuove. Sei la mia comunità che a suo modo ti rivuole. Ripartendo dai tuoi sogni, prendendoli reali. Perché sangue, rabbia e lacrime ci mettono le ali. Per noi sei come il fiore che nasce dall'etame. Sei Renato che respira a dispetto delle lame. Un progetto, un'ossessione, follia fatta in tuo nome. Ed ogni suono che produce autobattito del cuore. Sei il fratello di un fratello, una madre che commuove. Sei la mia comunità che a suo modo ti rivuole. Che riparte dai tuoi sogni, prendendoli reali. Sangue e lacrime ci mettono le ali. Che nasce come il fiore che nasce dall'etame. Sei Renato che respira a dispetto delle lame. Un progetto, un'intenzione, foglia fatta in tuo nome. Ed ogni suono che produce è un po' battito del cuore. Ne avevamo già parlato in particolare con Spider per quanto riguarda l'aspetto più specifico della grafica di Scarceranda e dell'impegno anticarcerario della radio. Cosa ricordi di questo aspetto di Radio Onda Rossa? Appunto, poi l'hai proprio detto te, iniziando a trasmettere e dicendo il saluto più importante lo facciamo a tutte e tutti coloro, compagni e non compagni, insomma, comunque costretti a condizioni di limitata libertà personale, il carcere, insomma, chi sta in galera. Da dove nasce questa vocazione, questo sì, chiamiamola vocazione, non intermedio. Sì. La radio ce l'ha da sempre, da prima. Per forza di cose. Da prima della. Sì, per forza di cose. E magari in maniera. Sì, c'era da sempre per forza di cose, in quanto appunto i compagni che venivano arrestati. Certo. La radio da sempre, anche se magari noi quelli della mia generazione lo approfondiamo anche un po' a livello teorico, ma già da prima in una maniera più distinto comunque di ragionamento, di cuore, si va al di là dei compagni in galera, cioè anche gli altri. Ci si interroga su cos'è il carcere. E quindi poi tra l'altro c'era stata io i particolari non li so bene perché appunto era prima che io arrivassi, ma la tragedia della macchina di compagni di Roma che parte per andare a manifestare a Voghera e ha un risultato, Voghera è il carcere o sbaglio, vabbè, comunque dei compagni muoiono durante il tragitto, sì. Quindi insomma anche quello serve a cementare più, quindi già diciamo il saluto ai compagni che ci ascoltano per la libertà già esisteva, per dirla banalmente. E noi abbiamo la fortuna di arrivare in radio in un periodo in cui un compagno di cui eravamo privati riesce a cominciare ad affacciarsi fuori dal carcere di Rebibbia, e un compagno che, per chi aveva già avuto la fortuna di conoscerlo e chi no, era comunque un qualcosa che sentiamo vicino, no? Nel senso che eravamo cresciuti scrivendo sui muri Salvatore Libero e ce lo troviamo non libero ma semi libero, un pezzettino libero a poterci rapportare. Cominciava ad avere le prime facilitazioni dovute più che altro al fatto della sua malattia di cuore. E mentre appunto cominciava questo rapporto di crescita sul carcere, gli levano la possibilità di uscire, cioè di stare fuori dal carcere in quanto malato, e alla sfiga di migliorare un po' di salute, ecco. Quindi giustamente di non essere malato troppo gravemente, esatto. E quindi da lì comincia nasce spontaneamente un collettivo animato da persone di vari centri sociali, della radio, per denunciare questa cosa che stava succedendo. Questa cosa si tramuta poi nel tempo in Liberiamoci del Carcere, che è questa assemblea cittadina che ragiona sul carcere a tout court, cioè non soltanto per i compagni che ci sono dentro, ma per cosa rappresenta. Quindi su consiglio proprio di Salvatore andiamo a leggere dei testi che sono assolutamente fondamentali, ma dal fuoco che tutti possono, certo, pensare a Guagliardo. E dei dolori e delle pene, se non sbaglio, che era un ergastolano delle BR che aveva fatto una scelta non di, come si dice, non era un irriducibile delle BR, però era irriducibile nel non parlare con lo Stato, quindi lui non usufruiva di nulla perché lui non chiedeva nulla. Poi invece a livello teorico aveva sposato delle idee di cui, per cui noi spesso siamo stati quasi accusati di essere socialdemocratici, cioè sulla essere appunto contro di abolizionismo carcerario, che è una cosa che prevede anche una via che prevede anche il passaggio di gradi, cioè vari gradi di lotta, per cui essere per l'abolizione del carcere non vuol dire andare domani per forza a bruciarlo e basta. Vuol dire anche lottare per la riduzione delle pene, perché la sanità venga rispettata, perché anche c'è rendere un po' più agevole la vita dei carcerati, che non è sindacalismo, ma esatto, semplicemente... però chiaramente può anche suonare male, certo, diciamo, se uno non l'ha approfondito per bene. Tra l'altro è chiaro che ci sono delle difficoltà, a parte a digerire anche noi stessi certe cose, chi era più preparato, chi meno preparato, ma anche a spiegarle. Cioè io mi ricordo che c'erano dei compagni di cui erano diciamo dei fondatori della radio, diciamo di quella generazione lì, di cui riconoscevo le voci, che quando facevamo le trasmissioni ci chiamavano perché un po' volevano capire meglio, ma un po' erano quasi metterci in difficoltà, e quindi ti citavano i delitti più esecrabili, dicevi beh quello non lo tiene in carcere, perché chiaramente no, sul caso limite tutti vacilliamo, no? Però vabbè, insomma, noi non, ben presto insomma, il problema non era quello, nel senso che tanto di padroni in carcere non li troverai mai, e quelli che hanno fatto delle cose veramente brutte la storia ci insegna che si possono affrontare in tanti modi, e che di sicuro che sicuramente il carcere non li migliora, insomma. Non li migliora, ma soprattutto che fino a 300-400 anni fa le soluzioni erano altre, quindi certo, non è vero che non ci sono soluzioni, certo. E niente, quindi da qui liberiamoci del carcere, scarcerando anche Bibbia e sì, chiaramente i capodanni, insomma. I capodanni, la mattina sulle Bibbia, ma anche le due street parade, mi sembra una come liberiamoci dal carcere. Quindi, perché ci eravamo un po' persi, vedi, la ricostruzione. Allora, ci sta la prima nel 90-91, per il Roppo Posse, per capirci. Sì. Con il concertone sotto al carcere, due cassette. A mezzanotte quello, se non sbaglio. No, non era capodanno. No, era estate. Era estate. Era estate, o comunque non era capodanno. Come, però di notte, insomma. Sì, di notte. E con alcuni compagni di un centro sociale, uno sta in radio ancora, mi resta sorridere, di un centro sociale che stava a Monteverde, che durò un poco, a Scadasuna, bravo, che erano stati arrestati quella mattina. E c'è un redattore che si occupa di cinema in questa radio, che mi sembra, sì, che, ecco. sì. E praticamente ecco lì ci fu un fatto, che allo slogan fuori compagni dalle galere si sentì dietro da dentro le carceri un anfami. Proprio perché appunto c'era chi non capiva perché i compagni sì e io gli no. Altri no. E quindi forse già abbiamo cominciato, no? Il primo germe di crescita culturale, insomma, anticarcerale. Esatto. Quindi quello pre di queste cose. Poi ci fu una street parade come liberiamoci dal carcere, con 5.000 persone forse, e un'altra dopo, più piccola, ma comunque riuscita, invece con la firma Odio il carcere, che era un'altra sigla. Il seguito, non so, sì, però con qualche anno di buco in mezzo, o forse sì, quindi non... Odio il carcere viene dopo Genova. Ecco, il libero carcere è pre-Genova. Allora vedi, aveva ragione la presidente, come sempre. Correa, sempre, non mettiamo mai in dubbio che Genova è stato uno spartiacque da tanti punti di vista. Da tutti i punti di vista, cioè anche dell'equilibrio dei rapporti tra centri sociali alcune alleanze storiche tra i centri sociali, che vengono a vacillare, a trasformarsi di fronte a Genova. La mattanza. Sì, ma non tanto per la mattanza, cioè, non è il momento, nessuno è la persona adatta. A Genova vengono fatti degli errori, tanti errori, e anche nei rapporti tra i centri sociali, tra i compagni, e quindi è chiaro che alcune cose non sono più ripetibili, no? Certo. Cioè, vabbè, non voglio raccontare niente. Vabbè. Genova la fermiamo, casomai dopo Genova ne parliamo, ma in altri termini, se ne abbiamo voglia. Sì. E vabbè, quindi diciamo, io mi trovo sia in Liberiamoci del Carcere che in Odio il Carcere, nel senso che poi faccio del carcere una delle cose che mi preme maggiormente. E tra l'altro, ecco, il fatto di parlare poi del carcere tutto e non dei compagni, ci, almeno all'inizio, no? Ci leva dalla diatriba amnistia indulto, mi ricordi tutta la, il dibattito su amnistia indulto, per cui cioè, per i compagni in carcere si parlava, e perché era un dibattito infinito che io, di cui non capivo bene neanche il senso, nel senso lo potessimo decidere noi, no? Noi possiamo liberare i compagni, poi purtroppo sono altri che decideranno la forma esatta. E insomma, il fatto di dire noi non vogliamo parlare dei compagni in carcere, noi vogliamo parlare del carcere, ci porta fuori da questa discussione e ci salva, perché lì se no le fazioni, certo, sì, o rischiavamo di avvitarci appunto pure noi dentro esatto, il dibattito fra amnistia, indulti e indultini, poi esatto, c'erano anche dove poi chi più, vabbè, io ogni tanto prendo delle strade, però no, vabbè, sono troppo, apro troppo, quindi meglio. E oggi Radio Onda Rossa invece siamo, penso, insomma, almeno quello che mi riguarda, che vedo, siamo abbastanza, cioè questa presa di posizione dell'epoca è stata solamente felice, nel senso che oggi ci troviamo in una condizione a cui appunto non esistono di questi problemi. Semmai appunto c'è l'importanza di comunicare verso l'esterno quanto il carcere non sia necessario, non sia utile, e magari in negativo messo così, insomma, e quindi io credo che una delle cose meno, alla fine, meno rituali che viene fatta è proprio, per quanto sembri, proprio, appunto, ritorniamo al discorso di prima, no? Sembra la cosa più scontata, più banale, invece no, io credo che l'appuntamento che ci abbiamo tutti gli anni sotto il carcere del Bibbia è ogni anno più ricco, malgrado che non è che vengono migliaia di persone, il numero di persone è sempre quello. Però non è mai un appuntamento rituale, sempre giovani compagni, giovani generazioni che vengono e che individuano proprio quel moloch, quell'edificio, quel cemento come qualche cosa che rappresenta altro, tutto sommato. Tra l'altro nelle prime, quelle organizzate con più forze, con più energie, e anche qui questo ci ha dato anche questo delle critiche di socialdemocrazia, e che chiedevamo ad alcuni parlamentari di farci entrare con loro in carcere a portare la voce di chi stava fuori. Sì. Questo, che poi il parlamentare è sempre uno, vabbè. No, non ho più di uno, devo dire che in quegli anni ne ho conosciuti tanti. Ed è stato, insomma, anche quello molto istruttivo, no? Perché dico sempre, io sono entrato spesso in carcere, ho avuto la fortuna di uscire sempre lo stesso giorno, perché per fortuna altri inconvenienti non ne ho avuto facendo i dovuti scongiuri, e anche quello, comunque, noi cercavamo sempre di alternarci tra compagni più grandi e compagni più giovani per far vedere appunto a tutti quanti la realtà di cui stavamo parlando, no? E anche quella un'ottima cosa, un'ottima esperienza, soprattutto perché in alcuni periodi trovavi delle persone che conoscevi dentro e che dovevi salutare con meno calore di quello che avresti voluto. Una delle cose più piacevoli è trovare delle persone che sono state dentro e ritrovarle fuori invece il 31 dicembre. Beh, sì. Ritrovarle fuori, che sono venute il 31 dicembre proprio perché conoscono quel posto, sì, molto da vicino. Ti introduco la canzone che stiamo per mandare, che a un certo punto, in quel periodo lì di tante iniziative contro il carcere, un compagno, un musicista che conoscevo già da tempo in memore, Bruno, che saluto se ci stesse all'ascolto, ci praticamente regala una canzone che in breve diventa un hit di Radio Onda Rossa. Cioè, abbiamo fatto anche un concerto dove l'abbiamo costretto a mettere su una band quasi solo per mandare solo quella canzone. Ancora più trasmessa London Calling questa, e che appunto si chiama Quando uscirò di qui, per chi se la ricorda.

Malgrado la pesante condanna che ha subito proprio per i fatti di Genova, appunto, e ritorniamo, vedete come poi sono abbastanza circolari le storie che si intrecciano dentro queste mura. Allora, altro appuntamento importante, altro momento importante della storia di Radio Onda Rossa, ne parlavamo proprio la scorsa settimana quando parlavamo di anni 80 con il Conte Max e il Caronte, la nascita della redazione di Rumori Molesti, insomma tutta una storia riguardante un approccio diverso, che un approccio nuovo. Una nuova ondata, una generazione che entrò in radio e che portò con sé le proprie in una radio giovane, perché appunto stiamo parlando della radio degli anni 80, quindi una radio che non aveva un'esperienza lunghissima sulle spalle, c'era un po' di compagni che l'avevano fondata, la stavano gestendo, però ci stavano pure le nuove generazioni dei ragazzi pischelli che entravano dentro la radio e che appunto avevano la loro modalità, che era quella di non separare troppo ad esempio il linguaggio musicale dal linguaggio politico. E fra gli altri dentro la radio entrò un collettivo, una crew, una posse per l'esattezza, che faceva una trasmissione e che aveva l'approccio con un genere musicale nato una decina, forse anche meno, di anni prima nella East Coast degli Stati Uniti. Di sicuro in Italia all'epoca forse c'era Giovanotti che ha fatto qualcosa, ma non faceva una specie rock and roll. E Africa Bambaataa era già residente in Italia, probabilmente faceva qualcosa, però lì si fermava. Certo. Sì, diciamo. Comunque era la musica del ghetto degli Stati Uniti, certo. Essenzialmente. Nemmeno in Europa c'era granché. Forse qualcosa c'erano questi strani esperimenti austriaci che arrivavano sotto forma commerciale qui da noi, però insomma cosa succede in quel periodo? Succede, allora, storicamente ricordiamoci che ci sta la più lunga occupazione dell'università in Italia, che prende il nome della Pantera. E chi si immagina che prende il nome della Pantera come omaggio ai Black Panther non ha torto, per il senso che sicuramente fu un doppio sicuramente si dice sì, certo, pure quello figo, però molto più banalmente nelle campagne del nord di Roma era stata avvistata una pantera che non è stata mai presa, mai trovata, una leggenda metropolitana di cui si parla spesso nei giornali in quel periodo, quindi inarrestabile, fugge, colpisce e fugge. E normalmente appunto la cosa bella delle generazioni, dei ventenni, dei venticinquenni, dei diciannovenni, dei diciottenni, è quella di saper, capito, cogliere al volo. Quindi la più grande occupazione, la più lunga occupazione dell'università italiana prende questo simbolo, questa pantera, nel 90, e combatte duramente una riforma che chiaramente passa, come tutte le democrazie, quando c'è una grossa opposizione si sta a sentire e poi la si deride e si va avanti. E all'interno quindi dell'università e all'interno di Radio Onda Rossa però nasce un qualcosa che sarà assolutamente dirompente e che, non so, visto che sono amici e fratelli, le attacchiamo dicendogli per colpa loro adesso ci sono i Feders e i J-Ax. Però diciamo che in parte è vero, per cui nasce questa cosa da questi ragazzi che a un certo punto, io almeno la prima volta che mi ricordo, è a Piazza del Popolo, si dirigono con questo furgoncino verso, durante la manifestazione degli studenti, fino al palco, salgono sul palco e cominciano a intonare una canzone che appunto è Batti il tuo tempo, che abbiamo pronta e la prendiamo. Esci da questo corpo.

forza! Chi è che si fa sotto? Parti il tuo tempo! Ubriachi, senza avere un sorso! Finiremo in una cella, ma chi? Dimmi, è legale, chi legale in questa spaccaterra? Sequestrano la gente per degli anni, in questa spaccaterra ad armi, uccidono impunite per la strada le pallottole vaganti! Chi è legale, chi legale? Chi? Bandito al criminale, giusto, l'ingiustizia, terribile bellezza! Dentro le celle, le menti che contrasto con i morti viventi! Questo è il momento dove è ancora un po' tempo! Questo è il momento dove è ancora un po' tempo! Oh. Batti il tuo tempo! Batti il tuo tempo! Batti il tuo tempo! Batti il tuo tempo! Fotti il potere! Batti il tuo tempo! Perché il fotti sveme! Batti il tuo tempo per fottere il potere! Di nuovo in diretta, quindi ricordiamo. Aspetta. Eccoci qua. Ci siamo? Sì, ci siamo. Dicevamo, quindi Militantà, che ancora lo sentiamo negli assalti frontali spesso, ancora molto prolifero di canzoni e di rime. E anche di iniziativa politica, insomma. Certo, poi una, poi, a cui diciamo piace che mettere bocca e comunque impegnarsi e stare dentro le situazioni, insomma, di quartiere, eccetera. Sì, poi soprattutto delle lotte per la scuola, visto che certo, c'ha lo stesso percorso mio, nel senso di adesso dedicarsi molto a fare il padre, lui era prima di me, quindi a suo modo il pedagogo, insomma. Sì, esatto. Dai, vabbè, siete pure tanti pezzi, il rap di Enea, certo, sono pure questi, certo, Rom, certo, e via discorrendo. E quindi in realtà Castro X, che poi subito dopo dà vita insieme ad altri agli AK-47 col pezzo quello per Silvia Baraldini, che se rimane il pezzo più bello del rap italiano in generale, e NCOT, Lampadred e non so chi altro si può annoverare nella formazione fissa di Onda Rossa fosse in quel periodo. Tutti e nessuno, diciamo, ecco, questi. Sì, anche perché appunto era una posse, una posse. E la posse era qualcosa di aperto, comunque, esatto, a cui più o meno un po' ci stavano tanti supplenti e tante cose. Vabbè, sì, poi di questa storia, questa vicenda del rap, c'è anche chi è più quotato di noi, per assolutamente stare dentro, però insomma ricordiamo altre storie al Forte. Beh, diciamo che questo disco, per chi non c'era, dai là a una follia collettiva per cui tutti quanti si cominciano a sentire cantanti. Cioè al Forte comincia la tortuga, ti ricordi, dove si andava lì, c'erano quelli più bravi che rappavano, ma improvvisamente ti giri e vedi che tutti quanti ci provano. Cioè, si sale sul palco, si prende, si va senza vergogna e via. Qualcuno con esiti, diciamo, sì, non proprio felici. Alcuni altri con bellissimi testi, ma non è capace a rappare, qualcuno è bravo a rappare, ma i testi lasciano da desiderare e via discorrendo. E poi da lì chiaramente le altre città, quindi 92 Posse, l'UX, Lionel's Posse, gli LHP di Milano. Vabbè, sono noi Briganti, Isola Posse a Bologna. Isola Posse a Bologna. Stop al Panico, un mix devastante, su Sound System in quegli stessi anni. Tra l'altro all'epoca, diciamo, non c'era nemmeno questa distinzione così netta come esiste oggi, almeno la maggior parte degli autori, proprio fra il ragamuffin e l'hip hop, cioè quello di derivazione, certo, giamaicana e quello di derivazione invece. Vabbè, fai un passo ancora indietro, tu sei meglio di me, i Clash con i J-Reg, certo, eccetera eccetera, no? E io mi ricordo per esempio un happening a Parco Lambro, non del periodo quello del proletario giovanile, ma quello delle Posse, dove salgono sul palco questi due pischelli, che altro erano che poi gli Articolo 31, quindi di J-Ax, che vengono un po' snobbati in quanto poco politicizzati, che insomma nell'indifferenza generale, la colpa di qui sopra, sì, esatto. Quindi, ma tutto questo per dire, come tutti quanti gli ascoltatori e le ascoltatrici di Radio Onda Rossa sanno, che abbiamo ristampato il vinile. Abbiamo ristampato. E il 24 al 99,99%. Come nel gioco del Monopoli, si ritorna al punto di partenza, esatto, al via. Senza prendere i 20 euro. No, i 20 euro li dovete lasciare, no? Adesso non so quanto lo spero, forse qualcosetta di meno. Speriamo di meno, dai. Però il vinile come quello è stato anche sul suono fatto qualche lavoro? No, abbiamo lasciato il suono. Il suono è esattamente quello del vinile originale. E questo non vuol dire buono. No, vabbè, certo. Ma sai che noi siamo amanti appunto pure dei suoni, delle registrazioni non troppo, cioè c'hanno la loro il loro perché, anche le registrazioni, quelle in presa diretta o quelle non danno, vabbè, entreremo pure qui in un discorso lungo. Comunque, insomma, ristampa del disco lo troverete qua sotto dal 24 in poi, e il 24 ci sarà pure. Spero loro, spero tutti quanti loro. Quindi la cerchiamo, posta, sì, cioè, stiamo cercando di raggiungerli tutti. Oh, vabbè, ci saranno sicuramente. Se possono, ci saranno sicuramente. Ok, va bene. Allora, mezzanotte e 20, ce l'abbiamo fatta. Ce l'ha ritirata a quest'ora. Sì. La scarpetta ormai si sta trasformando. Battono, colpiscono perché dicono il vero. Posse? Onda rossa la posse, puoi trattenerti ore sì, ma poi nascerà il segno. Guarda, NCOT scalpita il requieto, mai domato perché viene dalla strada. Lui spara, rompe il buio mentre illumina la rima. Così ex militata, ribelli in prima linea che declamano il messaggio. Forte, potente, non giri di parole ma diretti verso il cuore per colpire ancora il cuore. Per colpire ancora il cuore, perché ho visto io ho visto, sì, troppe volte io l'ho vista, ascoltata, cine, tv, radio, nei giornali, questa storia. Storia di una banda non di strada, indifesa, in offesa, armata, è la cricca del potere, mafia nelli nell'Italia. Controllano l'Italia e tu hacker, spicche, spicche, vendi immagini deviate. La boss, i mercati, gli stagni insanguinati. Buongiorno, la vediamo subito i titoli del nostro giornale. Vivi Gruppe, Bruno Vespa, Everardo, Dalla Noce, Carmella, sorella, Enzo, Biagi, Montanelli. Spacciano notizie, tagliate con salsicce, buone da mangiare, dal canale illegale, immagini, punte, scritture, vivere presenze che raccontano di niente. Gratis, nella tua tv, davanti, seduti e poi sdraiati, morti, liberamente prigionieri, tubo cattolico, al posto dei pensieri, la realtà. L'arte di cambiarla, simulata, camuffata, rivoltata, modellata. Becchino col pennino, speculi su tutti, per quattro, sporchi, duri di soldi, pezzi alla carriera, sei comune. Allora, Onda Rosso 87.9, la mozione di frequenza della banda romana e laziale, 25 o'clock ai controlli, mezzanotte e 22. Ci io possiamo, mi saluto, vi saluto e mi defilo, diciamo. Però ci vediamo il 24. Di nuovo un saluto appunto a chi, come dicevamo, abbiamo detto tante volte oggi, a chi ci ascolta privato della propria libertà, arresti domiciliari o carceri che siano, e ne approfitto per promuovere un'iniziativa che mi sta a cuore, oltre a quelle della radio che poi tu dirai in maniera più completa e saggia, e perché chiaramente poi appunto non è che uno si disintossica dalla Onda Rossa perché riesce a fare poi una vita completamente anonima e normale, perché siamo fatti così, perché dobbiamo metterci in mezzo, dobbiamo mettere bocca su tutto, e allora chiaramente mi sto dando da fare, ci stiamo dando da fare come genitori, e soprattutto nello schifo che stanno cercando di far diventare la scuola di questi tempi, la scuola pubblica ovviamente, e nella più pubblica di tutte, e nella più italiana di tutte, vanno e frequentano i miei figli, e la famosa Carlo Pisacane qui di Torpignattara, una scuola che per un periodo era additata come una cosa brutta perché piena di immigrati. In pochi anni, grazie all'impegno di tante maestre, ma anche di genitori che hanno preferito magari fare qualche passo in più per andare a scuola lì, non altrove, e questa scuola si sta trasformando loro direbbero in un'eccellenza, io dico in una cosa veramente bella, anche grazie al fatto che tanti genitori si vanno a fare per raccogliere finanziamenti che evitino che qualcuno partecipi a delle cose e altri no, perché chiaramente in una scuola del genere la situazione economica dei più non è agiata, e purtroppo tutte le belle cose che ci vengono proposte, gite, cose, hanno tutti dei costi per non lasciare nessuno indietro. Proprio perché la scuola pubblica comunque non è più in realtà totalmente pubblica, esatto. Nel senso che poi i fondi vengono continuamente tagliati e vengono chiesti sempre più interventi regionali. Cioè, visto che la regola che ci siamo dati è quella o tutti o nessuno, e per evitare che sia nessuno organizziamo in continuazione RIF, banchetti di merende autogestite per fare dei gruzzoletti con cui paghiamo delle attività come associazione dei genitori. E il 2 giugno, festa della Repubblica, dicono loro, della loro Repubblica, noi per il secondo anno facciamo questa iniziativa che si chiama Taste the World, assaggia il mondo, dove ci saranno 10 banchetti con 10 cucine diverse, da quella del Bangladesh, l'indiana, palestinese, curda, rumena, rom, eccetera eccetera, e tanti laboratori per bambini dalle 10 del mattino fino a mezzanotte, e poi la sera anche della ottima musica. Non posso svelare tutta la scaletta, carino così, e di sicuro ci saranno, perché non la sai un po', no perché non la stiamo a aspettare le ultime conferme, alcune che saranno sorprese, di sicuro Radici del Cemento in una versione acustica e con Rasta Blanco e Giulio e un po' di percussioni con i loro classici, e di sicuro i Roots Magic, che sono un gruppo di jazz blues notevole, pure una di, cosa ricca, insomma. Sì, di sicuro Ilaria Graziani e Francesco Forni, quindi per chi ama il folk con delle voci stupende, secondo me non può mancare, e poi insomma le altre cose a cui stiamo lavorando. Dunque, dalle 10 di mattina alle 10 di sera questa iniziativa nel cortile della Pisacane, di giugno, di che venerdì, capita? Di venerdì è festa comunque, sì. E ingresso libero, e il denaro abolito, ci piacerebbe in realtà, diciamo, nascosto dal fatto che forniamo delle, i soldi rimangono diciamo fuori e dentro si usano delle tesserine, delle fish, esattamente, di scamotaggio. E soprattutto tanti bambini, chi più ne ha più ne metta, che anche tutti quanti i cori della scuola, le danze del Bangladesh, insomma, chi vuole vedere cose belle, le cose belle di Torpignattara, e può venire il 2 giugno. Fuori ci sono ancora spesso rimasugli di comuni di Monnezza, perché pare che se no Torpignattara non sia riconoscibile ai turisti, quindi la fanno distinguere in questo modo, quindi si alternano i sindaci, i cartelli stradali, esatto. Però insomma si alternano i sindaci, si alternano le giunte, ma un po' di Monnezza a Torpignattara la si lascia, certo. E dentro invece c'è la cosa bella del Torpignattara, che sono i bambini della Pisacane, che sfidiamo qualcuno a non essere d'accordo con noi dopo che viene a trovarci. Benissimo, bene, ti ringraziamo, ti salutiamo, ci rivediamo il 24, ci rivedremo per chi verrà alla Pisacane. E poi le varie iniziative, perché come te le perdi, ma adesso le racconti. Sì, una. Le dirò una appresso all'altra e cercherò di elencarle. E un saluto a tutti quanti e a tutte quante che hanno avuto la pazienza di ti ringrazio molto e a risentirci a presto, speriamo. Ciao. Ciao. Forse è un crimine. Cosa vuoi fare tu? Dimmi. Qual è la via di scampo? Si salvi chi può. Questo è il nostro bersaglio. Con fatti, nomi, perché regna ignoranza. Tanta. O tutti opportunismi per una vita soli. Così volevo ucciderci. Ma siamo tornati. Siamo tornati per beccarti. Ora prova a fermarci. Fuori dal controllo. La dura posse, semplici militanti. Ti sta battendo il tempo. È chiaro come puoi fidarti. Tutti lo sanno come va la storia. Da dove vengono loro, dove vanno? E allora tieni il polso alla strada, perché lui usa, abusa, ma io gliela ficco in gola. A tempo di rap, dure parole dal cuore. A tempo di rap, quando siamo in azione. Fuoco! Sto premendo il mio grilletto, proiettili le rime, ma io voglio andare a segno. Perché c'è che maledetto, un mio fratello, ora è fresco dentro. Ci resterà per tanto, aveva fretta. Niente da darle in cambio, tu non tirarti fuori. Quale adesso la sua via di scampo? Ci fai spazio, zack! È come un treno in 4/4 di tempo. Valori sonori, distruggono argomenti per coglioni. Giù dal fondo, perché ce n'è. è bisogno, come un uragano, perché sono un uomo e i miei fratelli, così ostinati e giovani, così tanto ribelli, ed è quello che siamo, quello che siamo, la che prende il tuo cuore, fate parole, tanto una terra grotta sangue, push! Chiamalo col suo nome, un boy è un boia, soprattutto facciatore vende morte, soldi, tanti, dollari a milioni, per me prendersi droni. Un fottuto spacciatore, vende morte, pieno di interessi, mette il veto contro due dita sate, indice medio, sì.